spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. E dovendo selezionare, forse sono più di mille, ma è possibile identificare un filo comune che mette in relazione non solo realtà, ma storie, aspirazioni, sogni, frustrazioni, purtroppo in questo periodo, e non risparmia nessuna famiglia. Stiamo parlando di lavoro e in effetti affronteremo anche questo tema. Innanzitutto buongiorno. 13 minuti dopo le 8, in che senso parleremo di lavoro? Nel senso che nessuno è al sicuro, è una guerra quella del lavoro. Non risparmia nessuno e rischia di diventare un tutti contro tutti. Al di là delle cifre nazionali che possiamo ancora una volta ricordare, guardiamo fuori, guardiamo nel mondo. Sapete quanti posti di lavoro esistono regolari e formalmente riconosciuti a livello planetario? 1.200.000.000. Peccato però che 3 miliardi di persone ambiscano a lavorare con un'occupazione a tempo pieno in questo momento. E la differenza è molto semplice: 1.800.000.000 di posti di lavoro che mancano e andrebbero creati. Questi sono numeri, sono cifre, sono ricordate in un libro di Walter Passerini, opinionista della Stampa ed economista, che ha scritto La guerra del lavoro insieme a Ignazio Marino. Poi giovedì ha firmato un articolo, sempre in prima pagina della Stampa, dal titolo che ha fatto sobbalzare dalla sedia parecchi. Cioè, l'industria in Italia non trova più lavoratori. Ma com'è possibile questo paradosso? E quali sarebbero le terapie, le soluzioni, i modelli virtuosi? Quale sarebbe la strada che dovremmo seguire? Le vostre esperienze, i vostri suggerimenti, ne parleremo alle 9 nel corso di Spunti di Vista, e potete cominciare a prenotare le vostre telefonate per le vostre testimonianze all'800 24 00 24. E prima però parleremo di voci fuori dal coro, come quella di chi si spende in prima persona nella cooperazione internazionale. C'è una persona in particolare che abbiamo visto in questi giorni perché è diventato un fenomeno mediatico con il suo dramma. Si chiama Ken Branchley, è un medico. È un medico che ha commosso il mondo perché ha ceduto a una sua collega una sorta di siero sperimentale che poteva forse aiutarlo. Lui ha contratto l'Ebola mentre era in una missione umanitaria in Liberia. Ed era disponibile questo siero in un'unica dose. Dalla commozione si è andati allo scandalo, perché ieri lo si è visto scendere dall'ambulanza, da un'ambulanza americana, camminava a fatica, con mille precauzioni, era completamente coperto, con una sorta anche di scafandro, per essere trasferito nel centro più attrezzato del paese, degli Stati Uniti. Era arrivato dalla Liberia, gli si è scatenata la guerra mediatica addosso. Non si parla d'altro, puntano il dito, dicono: ma se uno va ad aiutare dove ci sono situazioni a rischio, lo faccia a spese sue, a suo rischio e pericolo, non venga però negli Stati Uniti. Il primo a levare la voce in un Twitter poi seguitissimo è stato Donald Trump: non venga qui a infettare noi. Fa specie la commozione da una parte dell'opinione pubblica internazionale, e poi questa sorta di caccia alle streghe che si è scatenata in versione americana, riportata da tutti i media internazionali, e in piccolo, nel suo piccolo, anche in Italia. Ce lo racconterà un ospite nel corso di Spunti di Vista, che ha un osservatorio particolare. Infatti è il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani, si chiama Giuseppe Ippolito, e ieri l'abbiamo sentito veramente scandalizzato dalla piega razzista che stia prendendo in Italia questa epidemia dell'Ebola di cui si parla. Ma parleremo anche con il dottor Giovanni Putoto, perché ci sono anche italiani che si spendono sul campo. Lui è il responsabile della programmazione di Medici con l'Africa, QAM, e è atterrato ieri sera proprio in Sierra Leone, dove c'è nell'ospedale di Pujon, gestito da questi medici. Ci sono 5 operatori di Medici con l'Africa e ci sono 5 italiani proprio lì impegnati nella sorveglianza epidemiologica. Ieri è stato confermato un caso di Ebola. Avremo tutte queste voci, prima però andiamo a vedere, a conoscere chi ci osserva e ci racconta all'estero. Visti da fuori. Come si dirà buongiorno in serbo? Tatiana Georgievic, puoi rispondere tu a questa domanda? Pronto? Tatiana? Il silenzio. Tatiana Dordevic è la corrispondente serba che oggi sarà protagonista del nostro Visti da Fuori. È una giornalista che si occupa di geopolitica, ma inevitabilmente anche di design, di arte e di cultura. La Serbia e Belgrado sono dei partner commerciali molto importanti per l'Italia. Basti pensare che sono 3 miliardi e mezzo di euro, questo è il volume dell'interscambio, 2 miliardi di euro di investimenti e 500 imprese. L'Italia è il principale partner commerciale, il maggiore investitore in Serbia, e l'ha ricordato anche recentemente il ministro degli esteri Mogherini. Ha portato Federica Mogherini in visita a Belgrado un messaggio di soddisfazione, ha dichiarato di essere soddisfatta del cammino delle riforme perseguito dalla dirigenza serba, nonostante il duro colpo subito dal paese balcanico con le recenti devastanti alluvioni. Ed è apparsa anche un'intervista su un'autorevole testata, il quotidiano Politica, dove la Mogherini, lo ricordiamo, naturalmente a doppia veste non solo di ministro degli esteri italiano ma presidente di turno del Consiglio europeo, ha ribadito l'impegno della presidenza italiana dell'Unione Europea a favore dell'integrazione europea dei Balcani occidentali e poi questo rapporto strettissimo tra Italia e Serbia. Tatiana, sei con noi? Pronto? Pronto? Sta diventando un giallo, non sappiamo se sia un boicottaggio in corso verso questa corrispondente di questa mattina, che proprio non riesce a prendere la linea con Radio 24, e ci ha raccontato delle storie molto interessanti su questo rapporto strettissimo, perché mentre la Serbia guarda con estrema attenzione all'Italia e conosce praticamente tutti gli aspetti, ne vuole essere informata, della vita italiana, viceversa noi siamo un po' all'oscuro di quanto succede a Belgrado e dintorni. Noi cerchiamo di recuperare Tatiana Đorđević, mentre da 7 anni e mezzo si trova in Italia, forse per la prima volta ha anche un problema di linea. Pronto Tatiana? Pronto. Sei tornata con noi? Era una sorta di giallo questa tua sparizione dalle linee. 7 anni e mezzo che ti trovi in Italia. Parlavamo di questo rapporto non sempre biunivoco. C'è grandissima attenzione in Serbia su ciò che accade nel nostro paese e viceversa. Noi conosciamo poco di quella che è l'evoluzione di Belgrado. Tu lavoravi naturalmente a Belgrado prima di trasferirti in Italia. Da quanti anni sei qui? Ma io devo dire che adesso sono 7 anni e mezzo, tra poco saranno 8 anni, ma prima che arrivassi qui ho lavorato per una radio che era uno dei media principali che ha combattuto contro il regime di Slobodan Milošević negli anni 90, e dopo ho collaborato anche con il quotidiano più letto in Serbia, Večernje Novosti, e scrivevo per tante riviste di design, moda e arte. Quindi dall'Italia ti chiedono soprattutto pezzi legati a questi campi o... ci sono anche... è questo, quando sono arrivata qui di solito mi chiedevano le cose, gli articoli del design, moda, ma anche arte, e qui invece scrivo tanto di geopolitica, di Balcani, per delle testate italiane, immagino. Sì, tutte le estate italiane, perché estate italiane è una di queste, la testata East e l'altro è il sito Babelmente. Io scrivo di solito cosa succede, ma non solo in Serbia, anche riguardo i paesi della regione come Croazia, Bosnia, Slovenia e altri paesi. Quanti perché sono, quanti sono Tatiana, i serbi in Italia? Ma in Italia il numero esatto non lo so, ma la comunità più grande serba si trova a Vicenza, che sono quasi 20.000 serbi, ma credo che lì sono compresi anche i cittadini croati e bosniaci, che sono molto meno, ma è dopo Trieste che c'è lì una grande comunità, diciamo, va bene, jugoslava, perché come il Trieste si trova al confine con la Slovenia, questo trend per arrivare al Trieste esisteva da sempre. Se tu avessi un figlio, preferiresti crescesse in Serbia o in Italia? Ma devo dire per il momento qui in Italia, perché tante cose, tutto quello che è successo in Serbia, la guerra e dopo la guerra, non è, devo dire purtroppo, che non è una situazione migliore, e anche non vedo in futuro un miglioramento. Parlavamo di questo grande volume d'affari, scambio commerciale, l'Italia è il principale partner commerciale, il maggiore investitore in Serbia. Grande attenzione ha riscosso naturalmente la Fiat, ma sono tantissime le imprese italiane in Serbia. Sì, io devo dire che l'Italia è sempre stato un paese molto vicino della Serbia, sia geograficamente che vicino di cultura, stile di vita, cucina e tutte le altre cose, ma questa vicinanza è approfondita soprattutto quando Fiat ha aperto il suo stabilimento nel 2012, e con la Fiat ovviamente l'industria automobilistica è più grande lì, ma con la Fiat sono arrivate tante altre imprese, come per esempio l'industria chimica, industria di pelle, quella di tessile, ma anche il settore bancario e quello finanziario. Attualmente si parla anche di una collaborazione tra due paesi nel settore di agricoltura e l'industria alimentare, e questo valore, questo scambio commerciale ha raggiunto un valore nel 2013 di quasi 5 miliardi di euro. 5 miliardi addirittura, quindi ancora superiore alla cifra che ha dato la Mogherini. Ma quant'è lo stipendio medio, per esempio, di un operaio in Serbia? Ma di un operaio, questo molto dipende dove si trova, se la Serbia centrale o quella del sud, ma diciamo che i calcoli sono che il stipendio medio è tra 2,550 fino al 3,550, ecco. Che è poco, ma anche ci sono quelli, per esempio, tu ci stai parlando in euro, 550 euro e 350 euro. Sì, dico in euro, ma devo dire che ci sono anche i stipendi che sono a 100 euro, 150, per esempio una signora che lavora in un negozio guadagna 150 euro al mese, che è veramente poco, no? Quindi un costo del lavoro rispetto a quello trovato da queste imprese sensibilmente inferiore rispetto all'Italia. Ma vorrei chiederti qualcosa della tua vita in Italia prima di salutarci, e della tua esperienza personale, non solo come giornalista ma come persona che osserva il paese da dentro. Per esempio, quando tu telefoni in Serbia alla tua famiglia, ai tuoi amici, cosa racconti? Cioè, quali sono gli aspetti che più ti colpiscono della vita quotidiana? Ma guardi, adesso per me qui è diventato tutto normale quando vivi così a lungo, ma all'inizio io devo dire, perché ci sono tantissime cose che assomigliano, che sono uguali, ma anche dopo tante cose diverse. Per esempio, per me all'inizio era molto molto strano entrare in un bar e bere il caffè a un banco in 2 minuti, era una cosa intensa. impensabile, anche quando racconto adesso questa cosa ai miei amici, per esempio, che non sono mai stati qui in Italia, ci sono anche delle persone che non sono uscite dal paese, anche questo devo dire, è anche per loro una cosa strana, perché io per esempio quando vado in Serbia di solito mi trovo con le amiche in un bar dove si ordina un caffè e si sta seduti più di un'ora, anche due, bevendo solo un caffè, che noi lì beviamo il caffè turco, e qui non esistono una varietà di caffè come qui in Italia. E dopo per esempio l'altra cosa è quello di mangiare sempre insieme negli orari previsti, che da noi questo per esempio va bene, questi orari qui credo che sono molto legati con gli orari dell'ufficio, invece da noi anche gli orari dell'ufficio sono molto diversi, si finisce molto prima, con il lavoro si inizia presto e si finisce prima, questa è una cosa che è rimasta molto dal comunismo, e quindi i ristoranti per esempio sono aperti tutto il giorno, tu puoi andare a mangiare, se vuoi pranzare puoi andare all'una, alle tre, alle cinque addirittura, che qui è totalmente diverso, ma dopo tu ti abitui qui, e adesso io quando vado in Serbia mi trovo in difficoltà. E questo è una difficoltà, un disagio che registrano tanti abituati a vivere all'estero e che si immergono completamente in un'altra realtà. Tatiana Dorović, serba, è stata oggi la nostra ospite per Visti da Fuori, la rubrica, l'appuntamento quotidiano con i corrispondenti stranieri. Grazie per il tuo tempo, Tatiana. Grazie a te, grazie. Buona giornata. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Due minuti dopo le 8 e riapriamo parlando di Ebola. In questi giorni si è seguito con una sorta di apprensione per un contagio internazionale quello che è stato lo sviluppo del virus, ma soprattutto noi vorremmo dar voce a coloro che lo combattono in prima linea e che si mettono in gioco per operazioni di contenimento sul posto. Possiamo collegarci immediatamente con la Sierra Leone, dove ci aspetta il dottor Giovanni Putoto. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lei quando è arrivato in Freetown? Sono arrivato ieri. E perché in Sierra Leone? Perché Medici con l'Africa QAM ha 5 professionisti che lavorano, sanitari, che lavorano nel distretto di Kujaung e stanno affrontando l'epidemia in quel distretto di 300.000 persone. Io voglio ricordare che Medici con l'Africa QAM è impegnato in Sierra Leone dal 2012, più nello specifico a Pujoeung, che è uno dei distretti più remoti del paese, per aumentare la qualità dei servizi alle mamme, ai bambini, di salute neonatale. Quindi questa attività del QAM è concentrata proprio sul rafforzamento della capacità sanitaria di un distretto già molto molto fragile. Lei cosa ha trovato, che in realtà ha trovato rispetto all'epidemia di Ebola? Quanto si è attrezzati in Sierra Leone? Il Presidente della Repubblica della Sierra Leone, Coroma, ha dichiarato lo stato di emergenza e oggi è una giornata in cui tutte le attività, sono tranne quelle sanitarie, sono bloccate e le persone sono state invitate a rimanere a casa per riflettere, educare i membri della famiglia e pregare per le vittime dell'Ebola. È una delle forme di contenimento dell'epidemia, che in termini di numeri di vittime sta crescendo, e sono state prese dei provvedimenti per bloccarla a tutti i livelli. Tra questi provvedimenti c'è un'accentuazione delle misure di salute pubblica: isolare i casi, rintracciare le persone che hanno avuto contatto con i casi sospetti, proteggere gli operatori sanitari formandoli e coinvolgere quanto più possibile la popolazione a collaborare e a evitare forme di resistenza ai provvedimenti stessi. Da cosa nascono queste forme di resistenza di cui lei ci parla, dottor Putoto? Provate a immaginarvi un villaggio africano, rurale, in cui una persona muore e ci sono i riti funebri, questi riti che prevedono di lavare il corpo del deceduto sono una forma di trasmissione della malattia. Ahimè, il virus sopravvive anche al decesso della persona. E si vedono arrivare un'equipe di persone scafandrate, sembrano degli astronauti, che interrompono questi riti e devono tumulare il cadavere seguendo delle procedure strettissime. È uno degli esempi di come l'impatto delle attività per la prevenzione della malattia vada a cozzare contro l'immaginario, la psicologia, i riti, le culture locali. E quindi oltre non c'è da sorprendersi se avete sono forme di resistenza. In questi giorni anche i medici che operano in queste zone sono affiancati a volte dalla polizia, perché a parte la tumulazione di colui che è deceduto, bisogna rintracciare le persone che hanno avuto contatti con questa malattia. E questa è una malattia che possiamo definire, si è scritto tanto in questi giorni, ma sulla natura di questo virus, in breve, esiste una terapia? Una volta individuato un caso sospetto, il vostro compito è curarlo o semplicemente isolarlo? Parliamoci bene. Non esiste una terapia a questa malattia, però prima di tutto questa è una malattia che si può controllare interrompendo il contagio tra le persone malate, infette e le persone sane. La seconda cosa che voglio dire è che comunque qui in Sierra Leone di tutte le persone che sono state infettate dal virus oltre 130 sono sopravvissute, quindi non è una malattia invincibile. Identificare i malati, isolarli, fornire loro assistenza, perché una buona assistenza può permettere a una parte di loro di superare la malattia ed evitare i contatti tra le persone infette e le persone sane. Questi sono i nodi critici sui quali bisogna lavorare intensamente, e sono questi approcci che hanno permesso altrove di ridurre e bloccare ed estinguere questo tipo di epidemie. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità in che modo vi può sostenere? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha una serie di competenze sulla conoscenza della malattia e sui sistemi di sorveglianza epidemiologica che sono molto importanti. Queste epidemie si diffondono per questi motivi, per la mobilità delle persone, perché il sistema sanitario è molto fragile, perché le competenze sono scarse e perché le risorse finanziarie sono estremamente limitate, $10 di spesa sanitaria pro capita all'anno. Potete immaginare qual è lo sforzo che fa la comunità internazionale, medici con l'Africa Tuam, per affrontare una situazione di questo genere. E a questo proposito colgo al volo questo suo indizio, perché ci chiedono degli ascoltatori noi cosa possiamo fare. Direi che per sostenere questo impegno quello che tutti possono fare è sul sito del QAM cercare il modo per contribuire anche dal punto di vista del sostegno economico a questa che deve essere un'aggressione importante. Quanti kit avete a disposizione rispetto alla popolazione del distretto di Pujon? Servono guanti, mascherine, serve isolare interi nuclei familiari. Cosa vi manca? Qual è la prima emergenza, dottor Putoto? I mezzi di protezione personale degli operatori sanitari, tutto quello che lei ha descritto. C'è un consumo elevatissimo di dispositivi di protezione, guanti, occhiali, molte altre cose che sono necessarie, e il loro consumo viene realizzato a livello ospedaliero e di centri sanitari periferici. Poi c'è bisogno di formare il personale e di mobilizzare l'ambulanza su tutto il territorio del distretto per verificare le persone sospette di contagio e di trasferirle all'ospedale. E poi c'è tutta l'attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità. Insomma, i bisogni sono grandi, se ci aiutate questo aiuto è molto apprezzato. Il riferimento al sito è d'obbligo. www.mediciconlafrica.org è un altro riferimento che possiamo dare. Dottor Putoto, speriamo in questi giorni di sentire ancora la sua voce per degli aggiornamenti che ci parlino di progressi fatti nel contenimento del virus dell'Ebola proprio lì in Sierra Leone. Naturalmente il nostro è una vicinanza collettiva quella che le manifestiamo tramite questa radio. Grazie per quello che fa. Buongiorno e buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie a nome anche dei 5 medici e infermieri che lavorano all'ospedale di Pugiaun in Sierra Leone. E naturalmente porti tutti i nostri saluti. Ci rende particolarmente fieri sentire che anche l'Italia è impegnata in prima linea con uno staff sanitario sul rafforzamento proprio del sistema sanitario in Sierra Leone, che si trova a fronteggiare un'epidemia che chiaramente sta gettando nel panico la popolazione. Quello che appare però più strano è invece la reazione quasi schizofrenica della società occidentale. Avete sentito in questi giorni la grande commozione suscitata dalla storia di Ken Brantley, questo medico che invece si trovava in Liberia, ha solo 32 anni, e infettato mentre cercava di portare aiuto alla popolazione locale, si è deciso di trasferirlo ad Atlanta, dove esiste questo centro per il contenimento e il trattamento dei virus più attrezzato, almeno sulla carta, del pianeta. Ebbene, questo medico di cui si è seguito il viaggio ha suscitato grande commozione quando ha deciso di rinunciare a quell'unica dose di siero sperimentale che forse poteva migliorare le sue condizioni. Oggi però è il bersaglio di critiche di milioni di persone negli Stati Uniti, perché se ha deciso un'attività di questo tipo lo faccia, dicono i social media, a suo rischio e pericolo, non doveva tornare negli Stati Uniti, non doveva mettere a rischio la nostra popolazione. Senza accuse di questo tipo a chi opera in prima linea, per fortuna, ma qualcosa di schizofrenico e una nevrosi immotivata si è scatenata un po' anche in Italia. E a parlarcene c'è il professor Giuseppe Ippolito, che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Epidemiologo, ma soprattutto direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Ora vorrei chiederle, dottore, innanzitutto qual è il rischio che Ebola arrivi in Italia e cosa sta succedendo alle vostre linee telefoniche in questi giorni? Se è vero che il rischio zero non esiste, il rischio è quasi zero. O assolutamente e assolutamente inverosimile, improbabile che oggi un paziente con Ebola arrivi in Italia senza, superando tutti quelli che sono i filtri. Uno, perché non abbiamo voli diretti con questi paesi, secondo perché tutte le stazioni di porto e di aeroporto sono allertate, qualsiasi paziente che diventi sintomatico durante il viaggio viene notificato al pilota dell'aereo e quando arriva i servizi medici di porto e di aeroporto del Ministero della Salute attivano eventualmente il trasporto in alto biocontenimento di questo paziente, quindi anche se dovesse arrivare l'Italia è preparata e il rischio non esiste. Però nonostante ciò si è scatenata un po' una richiesta di controlli a tappeto sugli immigrati che abbiamo in Italia addirittura, o che sbarcano in questi giorni, in quelli cosiddetti viaggi della speranza. Perché? Come spiega lei questo tipo di richieste? E allora, quanto fondate sono soprattutto? Allora, inizio, nessuna delle due richieste ha un fondamento scientifico. Il controllo sugli immigrati esistenti in Italia è pura assoluta demagogia. Anzi, mi dispiace che anche giornalisti illuminati che poi si sono dati alla politica in questi giorni stanno scrivendo idiozie senza pari sul fatto se sono arrivati al 12, 13, 15 giorno. Questa è una malattia che fa gran parte dei casi nei primi giorni, quindi tutte queste cose che sono state scritte non sono vere. Per quanto riguarda gli immigrati clandestini, ritengo che questo sia ancora più improbabile, perché gli immigrati clandestini fanno un lungo viaggio, fanno un viaggio in condizioni disagiate, e abbiamo visto l'Italia deve andar fiera che un caso sospetto di vaiolo alla scimmia, che fortunatamente non era tale, è stato prontamente identificato dai servizi sanitari della Marina e del Ministero della Salute. Quindi il rischio, lei ribadisce, è vicino allo zero. Quando ha sentito l'impegno, naturalmente conosce bene questa organizzazione, Medici con l'Africa. L'uomo col quale abbiamo lavorato, loro sono stati i nostri subcontractor in Tanzania ed è un'organizzazione che rispetto profondamente. E ha sentito il dottor Giovanni Putoto, arrivato proprio ieri a Freetown per in qualche modo collaborare con le autorità locali per il contenimento di questa epidemia. Di fronte a un virus del tipo Ebola, qual è la profilassi? Come si può agire sul territorio? Ma intanto non esiste profilassi, l'unica possibilità di identificare precocemente i casi, ed è questa la logica che ci ha portato alla fine di marzo a mobilizzare come consorzio europeo del laboratorio mobile uno dei nostri 3 laboratori in Guinea, perché arrivare a fare in meno di 6 ore una diagnosi se uno ha Ebola o meno significa attivare in maniera cosciente procedure di isolamento. Il secondo intervento è la formazione, che non ci sarebbe bisogno solo in Africa, ma anche in Italia, delle persone, dei cittadini, dei villaggi, perché non si nascondano i casi, ma che tutto venga gestito avendo confidenza, credendo a quello che fanno le organizzazioni internazionali. Le organizzazioni internazionali sono lì per aiutare le popolazioni e non per nascondere la verità. Questa è una cosa che va detta, e quindi aiutare le popolazioni significa facilitare il distanziamento fisico delle persone, mettere in atto quanto prima è possibile gli isolamenti, dal momento che non esiste un vaccino, o un vaccino esiste, se vuole ne parliamo dopo, e non esistono terapie farmacologiche efficaci, ma solo terapie di supporto. E come commenta la reazione statunitense di grande parte della popolazione, che addita il suo collega, il dottor Ken Brantley, come un pazzo che sta mettendo a rischio la salute pubblica degli Stati Uniti per aver scelto di rientrare ad Atlanta a farsi curare nel centro? Esattamente come penso di chi dice che gli immigrati ci portano Ebola. Stupida e demagogica, non esiste alternativa, perché la motivazione che se uno va in Africa e gli succede qualcosa deve accettarne tutti i rischi. Le persone che vanno in Africa lo fanno con atti di eroismo, e andare in quei paesi è ancora più difficile che in altri. Rendersi parte attiva ed integrarsi ed aiutare le persone non deve essere considerato come qualcosa che fa perdere i diritti di cittadini o del paese da cui si proviene. Grazie mille, grazie a Giuseppe Ippolito. 8:48, tra pochissimo ritorneremo in diretta con Spunti di Vista. Ora qualche aggiornamento su strade e autostrade in Italia. Spunti di Vista, i 1000 aspetti dell'attualità. E ancora 49 minuti dopo le 8 ci troviamo a ribadire, ve l'ha detto Spallanzani, ve l'ha detto Giuseppe Ippolito e dunque l'Istituto Nazionale Lorenzo Spallanzani, l'autorità più preparata senza dubbio in Italia, una delle eccellenze mondiali, non c'è alcun rischio in Italia. Ancora ascoltatori che ci chiedono gli immigrati che controlli ci sono, è stato spiegato nel dettaglio. Per fortuna tra i vostri sms c'è anche chi vuole aiutare, chi vuole in qualche modo rendersi utile per questa emergenza. Siamo tutti interconnessi, ci scrivete, è giusto che diamo una mano. Ripeteteci il sito www.mediciconlafrica.org per avere maggiori informazioni, oppure potete digitare anche direttamente QAM e avrete diversi link che vi portano a conoscere quell'attività degli operatori di Medici con l'Africa, non solo in Sierra Leone ma in diverse zone pericolose e soprattutto svantaggiate del pianeta. Quando abbiamo provato a chiedere loro dei rischi personali, ci hanno sempre fatto presente che quello non era un tema di discussione. Il tema di discussione sono sempre i rischi di queste popolazioni. È un approccio alla vita che colpisce, decisamente diverso da chi si preoccupa che il medico Ken Bantley possa portare negli Stati Uniti e diffondere addirittura il virus dell'Ebola. Ha viaggiato in Africa, ha deciso di aiutarli e quindi doveva lavarsi i panni sporchi in Liberia dove si trovava, non doveva tornare da noi. Questo è un po' il tono, il tenore dei Twitter che trovate se avete voglia di navigare un po' in cerca di squallore su internet, ne troverete diversi arrivando dagli Stati Uniti. Noi nel corso di Spunti di Vista parleremo di lavoro, perché vogliamo capire se ci sono modelli che funzionano nonostante siano segnalati dati, numeri in continuazione che portano quasi a una sorta di scoramento, una sorta di scoraggiamento totale, rassegnazione. Ci possono essere intraprese riforme, visto che se ne parla tanto, o soluzioni o interventi che portino a risultati concreti? Soprattutto quali sono i vostri, se poteste decidere voi di cosa c'è bisogno in questo paese e in quel campo? Diteci al 349 238 6666 oppure al telefono, potete già prenotare le vostre telefonate, 800 24 00 24. Lo faremo però dopo aver aperto una pagina decisamente positiva. Si parla di libri non incasellati in scaffali, ma libri sulla strada, libri nel mezzo della piazza, libri allineati addirittura sulla scalinata di un palazzo comunale. E per parlare del flash mob più bello d'Italia, oggi è con noi il professor Pierluigi Bagatin. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei che ci ascolta. È socio ordinario dell'Accademia dei Concordi di Rovigo e oggi ci deve raccontare un flash mob via radio, ci deve restituire un'immagine. Sentiamo come se la cava, professore. È stata un'esperienza molto bella, è avvenuto il lunedì 7 luglio, quindi un po' di tempo fa, per cercare di far giungere una sensazione diffusa fra la popolazione di Rovigo e anche di tutti quelli che sono a conoscenza dell'ipotesi, per oggi ancora realtà, di chiusura della biblioteca pubblica della città di Rovigo. Il flash mob è stata un'esperienza molto, molto bella, che è stata lanciata sui social network a una decina di giorni prima di questa data, ha ricevuto grandi consensi e quel lunedì ci si è ritrovati in più di 1000 persone nella piazza grande di Rovigo, piazza Vittorio Emanuele, fra il palazzo del comune e il palazzo dell'Accademia dei Concordi, dove appunto ha sede la biblioteca pubblica di Rovigo, a manifestare in questo modo così democratico e anche così, così bello il proprio pensiero. Ci si è stretti attorno alla biblioteca, che da quel giorno è chiusa, ancora oggi è chiusa, quindi è un flash mob che è stata un'esperienza molto bella. Lei si immagini più di 1000 persone in quest'angolo, giovani, bambini. No, ho adulti. Visto la foto, proprio impressionante. È proprio impressionante rispetto sì. ai soliti flash mob che coinvolgono persone semplicemente i giovani, diciamolo in genere. Qui era incredibile la mescolanza di età, almeno questo si coglieva in questa fotografia. Poi questo minuto di silenzio con i libri che sono stati alzati, e ognuno aveva ovviamente libri diversi, quelli che preferiva, proprio a voler. Tutti che brandivano un libro col braccio alzato. Libro, ma non minacciosamente, ma con la forza della cultura. Sembrava, professore, un'installazione, cioè sembrava creato ad arte da qualche artista, naturalmente, un'installazione vivente. Invece è stata una mobilitazione spontanea. Una mobilitazione spontanea, ripeto, partita dai social network, dai giovani, una situazione insolita per una città come Rovigo, ma direi anche per un panorama nazionale, anche perché è insolito il motivo per cui il flash mob è avvenuto, vale a dire la chiusura che è a tutt'oggi in vigore di una biblioteca pubblica, della maggiore biblioteca del Bolesine. Quanti abitanti ha Rovigo? Ha poco più di 50.000 abitanti. Ecco, quindi immaginate questa popolazione che si mobilita. Addirittura nel Palazzo Comunale su ogni gradino è stato messo un libro dicendo al sindaco, in pratica all'amministrazione comunale: volete calpestare la cultura? Allora camminateci sopra. È stato interessante non solo vedere la passione, ma veramente le frange e le età che erano rappresentate in questa folla di rivoluzionari. Allora, veniamo al tema chiave, però. Cosa perché sta accadendo? Perché si è fatto il flash mob? Perché si è arrivati a questa esasperazione, a questa mobilitazione per i libri, che fa ben sperare comunque? Allora, proviamo a riassumerla anche per chi ci ascolta, perché è un rapporto abbastanza... Deve fare uno sforzo di sintesi, professore, perché sì, siamo in chiusura. Un ente pubblico, il comune, si unisce, si lega a un'istituzione privata gloriosa, l'Accademia dei Concordi, ancora nel 1836. È un rapporto di comproprietà indivisibile, perenne e irrevocabile. Allora, da una parte l'Accademia ci mette una grande raccolta di quadri che ha appena avuto in donazione, il Comune ci mette una grande raccolta libraria che aveva appena acquistato da un abate padovano, Gnocchi. Ecco, si legano questi due enti e il Comune riconosce di pagare da allora in poi il bibliotecario e la metà delle spese di funzionamento della biblioteca. C'è un'insolvenza da parte del comune, veniamo al punto perché stiamo chiudendo, quanto sì. Manca? In termini proprio economici, so che non è bello, ma in termini economici, guardi, c'è un decreto ingiuntivo del tribunale nei confronti del comune per il pagamento degli arretrati, vale a dire 370.000 euro. 370.000 euro che possono mettere in forse questo grandissimo patrimonio, che stanno mettendo in forse, perché la soluzione deve ancora essere trovata. Grazie del sindaco. Grazie per questa testimonianza, professore. Purtroppo il tempo stringe anche di fronte alla cultura. Abbiamo segnalato questa situazione decisamente insolita per il patrimonio principale da non perdere a Rovigo in un solo. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E prima di aprire la pagina lavoro, lo faremo tra pochissimo, poveri rodigini, c'è anche chi ci scrive a commento della questione del flash mob per salvare la biblioteca, che chissà poi quanti di questi abitanti di Rovigo l'hanno mai frequentata questa biblioteca. Ma è una città che si ribella per quella che loro percepiscono come la soppressione di ciò che fa l'Italia grande nel mondo e anche il disprezzo di un patrimonio storico incalcolabile. Pensate anche ai centinaia di incunabili di valore inestimabile che sono in quella biblioteca. La morte della cultura, hanno denunciato questo e adesso si sentono anche dire da noi che forse non tutti ci andavano con la frequenza richiesta. Alcuni ascoltatori ce l'hanno scritto ed è giusto segnalare anche questo. Dove ce l'hanno scritto? Gli sms che potete continuare a digitare, il numero 349-238-6666. Se invece volete telefonare, 800-24-0024. E infatti già c'è chi è al telefono per raccontarci quali sono, quali sarebbero le sue soluzioni per il problema lavoro. Ma si tratta davvero di problema? E come si declina poi questa parola? Vi abbiamo anticipato in apertura di trasmissione La guerra del lavoro, un libro scritto da Walter Passerini, opinionista, economista della Stampa, insieme a Ignazio Marino. Un libro in cui si danno delle cifre planetarie, non solo italiane. Saluto e ringrazio per il suo tempo l'autore, che tra un istante sarà con noi. Buongiorno, benvenuto Walter Passerini. Buongiorno Irene, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sì, già l'anno scorso ti abbiamo scomodato per questioni legate al lavoro, quest'anno però ci hai fatto anche sobbalzare dalla sedia. Cioè, da una parte dici che lavoro, mancano 1.800.000.000 di posti, hai fatto un conto planetario. Sono 3 miliardi le persone che ambiscono a lavorare con un'occupazione a tempo pieno, regolare nel pianeta. Però a livello mondiale, in questo momento, i posti di lavoro con queste caratteristiche disponibili sono 1.200.000.000. Poi firmi un articolo giovedì in prima della Stampa che si intitola L'industria, se l'industria non trova più lavoratori. Non so, Walter, mi sembra una contraddizione, cioè No. Dove sta la verità? Mi sembra un po'... La verità sta esattamente nelle due cose, perché da un lato la spinta dei paesi emergenti, non soltanto più i BRICS, ma si sono coniati acronimi MINT, INEXT e altri, stanno premendo verso il lavoro, quindi stanno creando lavoro regolare. Nel mondo il lavoro sta crescendo, dove cala invece, dove crea dei problemi, nelle società più ricche, in particolare nelle società che stanno cambiando pelle, che erano società industriali, e parlo dell'Europa in modo particolare, ma che oggi debbono parlare di neoindustria, devono creare un nuovo tipo di industria, ed è qui che il raccordo tra formazione e lavoro non funziona più, per questo mancano persone. Ci sono ormai, io sono partito da Fincantieri, che cerca saldatori, non li trova ed è costretta a rivolgersi all'Est Europa. Scusa Walter, sembrerà una domanda retorica, ma cosa spinge le persone a cercare lavoro? La curva va dal dovere al piacere, e il problema è che in mezzo c'è il mare, c'è un po' di tutto. Avere la possibilità di pensare al lavoro come piacere creativo non è da molti. Pensare che il lavoro sia un obbligo, un sacrificio, un dovere, purtroppo è per molti. Il problema è che bisogna ridare al lavoro valore e soprattutto senso, è quello che oggi manca. Quindi il lavoro non è semplicemente una fonte di approvvigionamento economico, ma è un complesso di elementi, perché c'entra la realizzazione dell'individuo, c'entra il senso di appartenenza a una società, di poter contribuire a una società in qualunque forma, c'entrano a volte delle problematiche di identità che, se non curate, portano a diversi disagi che poi si riflettono nella famiglia e in altre sfere molto personali. Lavoro non è solo una voce dell'economia, però è una voce anche molto cliccata. Quanti click ha lavoro? Ma sul libro ne avevo segnate 91.600.000, questa mattina ho fatto un altro conto, ho guardato, sono 103 milioni, quindi i click, i referenti, le referenze sulla parola lavoro sono in crescita pazzesca, perché il libro tra l'altro è fresco, è recente, non è fatto da 2 anni. E poi anche l'occupazione più o meno è stabile, mentre invece sta crescendo molto anche la parola disoccupazione. Evidentemente il termometro, diciamo, dei motori di ricerca ci dice che la preoccupazione degli italiani in particolare, ma anche nel mondo, sta molto crescendo. Il problema è quello comunque di far passare, ecco, il lavoro dalla una concezione puramente di diritto, il lavoro è un diritto e qualcuno me lo deve dare, a una diciamo identità di progetto. Il lavoro è un progetto che anch'io personalmente posso costruire. Lei ha parlato, tu hai parlato delle carenze della formazione, c'è un po' uno scollamento tra le figure che si trovano sul mercato del lavoro e le figure di cui avrebbero bisogno tanti comparti. E per parlarne con noi oggi Bortolussi, che saluto e ringrazio per il suo tempo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Voglio ricordare che Giuseppe Bortolussi è il segretario della CGA di Mestre. Ma ha sentito cosa si dice? Mancano saldatori e non solo. Le risulta? Sì, è proprio così. Ma c'è proprio un borsino che dice che sono aumentati, per esempio, i lavoratori nel campo dell'estetica, i parrucchieri, le colf, le badanti. Poi i camerieri in alberghi e ristoranti, ma aumentati parecchio. Per esempio nel 2013 sono aumentati di 314.000, più 71%, dico, le estetiste, i parrucchieri. I camerieri in alberghi e ristoranti sono aumentati del 31%, più 251.000. Magazzinieri non qualificati, addetti alle consegne, più 43%, più 125.000. Poi anche i portieri, cioè, scusi, cosa ci sta dicendo allora? Che quando si parla di disoccupazione in realtà è una leggenda? No, è un dato di fatto importante, attiene anche al fatto della preparazione, della scolarità, dipende da tante cose. Molti si appuntano solo sul fatto che abbiamo meno laureati, ma per esempio la Germania ha molti meno laureati dell'Inghilterra, della Francia, ma per esempio la sua disoccupazione giovanile è al 9%, mentre quella francese è al 23%. Cioè, questo e quello, cioè c'è un mismatch tra le richieste del mercato e quello che offre la nostra scuola, i nostri istituti professionali, tra l'altro ottimi. Ma la vostra organizzazione parla di 350.000 posti d'artigianato che a rischio, nel senso che possono restare vacanti. Sì, ma perché questo abbiamo rilevato che c'è gente di una certa età che sta andando quindi in pensione e dall'altra parte non ci sono giovani che entrano nello stesso lavoro. Ma io prima di che tipologie di lavoro parla, scusi Bortolussi? Ci faccia qualche esempio. Ma guardi, può sembrare banale, ma dal materassaio al fabbroferraio, alcuni di questi mestieri sono a rischio di estinzione anche per i falegnami e per altri. Ora, sono mestieri che noi consideriamo anche abbastanza innovativi, se pensiamo ai macchinari che usano, a tutto quello che fanno, non sono più i mestieri di una volta. Ebbene, c'è una forte carenza da un lato, ma adesso la crisi è intervenuta e ha cambiato anche questo aspetto. Le dico, per esempio, prima le parlavo dei mestieri in crescita, beh, ce ne sono alcuni per esempio in declino, e quando noi parliamo per esempio di artigianato parliamo di 100.000 posatori, serramentisti, idraulici, elettricisti meno, parliamo artigiani, operai specializzati del legno, nel tessile, nell'abbigliamento, altri meno 109.000, muratori, carpentieri meno 177.000 e imprenditori e gestori di piccole imprese siamo a 441.000. Per esempio i ragionieri sono 400.000 in meno. Allora, il discorso è questo, che c'è una forte crisi di cui magari chi ha il posto di lavoro non se ne avvede, non se ne accorge, ma guardate che nel mondo della piccola impresa, che è quella che garantisce qualcosa come il 67% dell'occupazione, cioè le imprese con meno di 50 addetti garantiscono il 67% dell'occupazione, bene, queste sono in fortissima crisi, perché è in crisi il mercato interno, perché i consumi sono in calo e queste piccole imprese sì esportano anche più degli altri paesi europei, le aziende omologhe in Germania esportano molto meno di queste italiane, chiaro. E qual è la scommessa dunque, qual è la strada da seguire? Sentiremo anche quello che ci indica lei. Vogliamo dar voce agli ascoltatori. 800 24 00 24. Pronto, buongiorno. Cristina, pronto? Sì, ci sono. Cristina, ci dica. Allora, io volevo dire, come probabilmente avete sentito all'accento, io sono belga e volevo solo dire che in Belgio, per esempio, c'è il sussidio di disoccupazione per tutti, quelli che hanno perso il lavoro o anche quelli che non hanno ancora trovato lavoro. La cosa che secondo me è importante è che quando uno rimane per un certo tempo disoccupato ha la possibilità di fare dei corsi senza però perdere la disoccupazione. La possibilità di fare dei corsi che possono affinare le sue competenze? Sì, ma anche cambiare completamente la vita, perché io mi do come esempio, io avevo studiato al liceo in Belgio, avevo fatto liceo classico, poi dopo ovviamente... Il liceo classico lavoro, in Belgio? Non ho capito. Lei aveva fatto liceo classico in Belgio, sì. Quindi immagino, insomma, puntava a un'occupazione di tipo umanistico, sì. Forse di insegnamento. Sì. Sì, invece poi non sono riuscita a trovare niente, allora mi sono iscritta alla disoccupazione. Dopo un po' mi avevano proposto un corso di contabilità che io ho fatto per un 6-8 mesi, ho preso anche il sussidio ovviamente, e dopo aver fatto questo corso di contabilità ho trovato lavoro, perché le aziende poi contattano ovviamente le persone che fanno questo corso, ho trovato lavoro e fino adesso anche da un bel po' di anni lavoro nel reparto contabilità e mi trovo benissimo. E quindi lei ci sta segnalando una rete di sostegno organizzata, questi sì. Corsi sono offerti a livello comunale, a livello statale? No. Statale, poi c'è veramente di tutto, c'è, come diceva il signore prima, c'è saldatori, c'è falegnami, giardinieri, persino anche possibilità di fare il corso di insegnante dell'elementare, insomma controllano i mestieri che ho, i posti liberi, i posti e in base a quello si organizzano dei sì, corsi di formazione. E poi lei mi sembra interessante questa sua esperienza, Cristina, perché ci sta segnalando anche questo dialogo, questa interfaccia con le aziende che si rivolgono direttamente a questi corsi per estrarre come dire candidati alle posizioni vacanti. E questa sua esperienza immagino non sia unica, sia abbastanza diffusa nel paese da cui lei viene. Perché spingono alla gente di fare dei corsi, perché quando uno prende la disoccupazione dopo un anno se non ha trovato niente viene invitato a un colloquio e poi deve spiegare un po' il suo percorso, che cosa ha fatto durante quell'anno di disoccupazione, e poi dopo viene gentilmente anche invitato di seguire dei corsi. Grazie mille per questa fotografia scattata in Belgio, ma decisamente interessante. Ha sentito Walter Passerini? Sentito con piacere e anche con rammarico per il fatto che in Italia il problema della disoccupazione oggi, che è una disoccupazione non di quantità ma di qualità, dipende da, diciamo così, due fattori fondamentalmente. Primo, la mancanza di orientamento, soprattutto scolastico, cioè sulla formazione, dove le famiglie sono lasciate sole e scelgono sulla base di, come dire, problematiche loro, insomma, quindi non seguono l'andamento del mercato. L'orientamento in Italia è una cosa cenerentola, come dire, per usare un termine fiabesco. Dall'altro lato, però, oltre alla mancanza di orientamento, fin dalle scuole, manca assolutamente la rete dei servizi che in Belgio c'è, che in Francia c'è, che in Germania c'è, che negli Stati Uniti c'è, che nel Regno Unito c'è, che in Svizzera c'è, che questa rete dei servizi sia pubblici che privati che accompagnano le persone non solo nel primo lavoro ma anche quando si perde il lavoro. E poi ci sono le politiche attive. Politiche attive vuol dire che a una persona non si può dare soltanto uno stipendio, chiamiamolo stipendio, di 700-800 euro al mese per lasciarlo disoccupato, bisogna fare in modo che anche il disoccupato abbia la possibilità di rimettersi in gioco. Ci dicono però gli ascoltatori, e dunque questi posti di lavoro che mancano e che andrebbero riempiti, danno diritto a degli stipendi bassissimi. Stiamo tornando all'etica della miseria, l'Italia sta tornando ai mestieri poveri? No, certo è che oggi si può essere poveri pur avendo un lavoro, c'è un fenomeno nuovo che si chiama i working poor, appunto. Ma il problema è che è vero che il lavoro oggi ha poco valore, nel senso che il lavoro, in particolare il lavoro industriale, in ogni caso che richiede sacrificio, fatica, investimento, formazione, eccetera, è un po' snobbato. I modelli, diciamo, di crescita e di successo sono basati altrove. Il lavoro ha perso valore anche dell'immaginario collettivo. Oggi, per esempio, ci sono delle persone che pensano che un lavoro serio può essere quello dello speculatore finanziario. Si guadagna molto di più ad aprire un casinò in Croazia che ad aprire un'azienda metalmeccanica in Lombardia. Insomma, è un tema di declino di valore del lavoro. Grazie. Naturalmente le segnalazioni sono molteplici anche su questi corsi di formazione. Ci dice Angelo che un corso di saldatore in Italia c'è, ma costa 2.000 euro. Andiamo a dare un'occhiata, accompagnati non solo dall'esperienza della prima ascoltatrice, ma anche di chi altre realtà le conosce per averle studiate, a cosa è successo a nazioni che si trovavano in posizioni analoghe alle nostre e che sono riuscite a ribaltare la situazione. La Germania, per esempio, ha una disoccupazione oggi al 6,7%. Nel 2000 era al 9,9%, nel 2003 era al 10,5%, per raggiungere l'apice nel 2005 di 11,7%. Come sono intervenuti? Cosa hanno fatto? Cosa si potrebbe mutuare, visto che si parla sempre di Europa e di best practices, cioè di procedure che andrebbero così ascoltate, viste, copiate anche altrove, dove hanno dimostrato empiricamente di funzionare. Irene Tinagli, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Lei è un onorevole di Scelta Civica, ma soprattutto è anche una docente all'Università Carlos III di Madrid e si è occupata per anni di questo tipo di politiche e di cosa funziona. Cosa è successo in Germania? Beh, ora la Germania ha avuto un percorso di riforme profonde, quelle di cui si parla tanto in Italia da molti anni, e le ha avute agli inizi degli anni dell'anno 2000. La Germania ha avuto una grossissima crisi anche quando c'è stata poi dopo la riunificazione, un'altissima spesa pubblica, insomma un enorme problema che poi è andato ripercuotendosi anche sull'occupazione. Loro hanno cercato di recuperare competitività, quindi con le riforme che dessero la possibilità alle imprese, quindi sono partiti più dal sistema delle imprese che non magari dalla domanda. Noi spesso diciamo bisogna dare più soldi alle persone perché comprino, per far ripartire l'economia, invece loro hanno detto no, noi dobbiamo cercare di rendere il sistema delle imprese più competitivo, dare a loro la possibilità di produrre di più, di creare posti di lavoro e di dare, diciamo, e di poi pian piano di far ripartire l'economia. E quindi hanno dovuto fare anche riforme dolorose, hanno tagliato anche tanti sussidi, perché anche hanno creato della condizionalità fra i sussidi e la ricerca attiva di posto di lavoro. Noi invece spendiamo purtroppo molto in sussidi passivi, magari per aiutare un po' le persone che non hanno niente, ma non le aiutiamo, come si diceva prima in trasmissione, a ricercare lavoro, a riqualificarsi, a offrire loro dei corsi di formazione qualificati. Non la sentiamo più, si è allontanata dalla cornetta. Stavamo parlando di questo aspetto molto importante e ci sembra riconosciuto da tutti come necessità, cioè di sussidio che sia accompagnato da una ricerca attiva da parte di colui o colei che riceve l'aiuto, di riqualificazione, di formazione. Manca però in Italia una rete, se è vero, lo dicevano gli ultimi dati pubblicati su questo tema, che quei posti di lavoro che pur si creano in Italia, se si va a vedere come sono stati segnalati al candidato, si scopre, anche quando non si vuol parlare di raccomandazione vera e propria o di circolo vizioso o di posizione non meritevole, si scopre comunque che questi posti di lavoro sono stati segnalati da amici che magari già vivevano nell'azienda in cui poi la persona viene assunta, o che conoscevano qualcuno all'interno. Quindi, senza adesso scomodare le carte antipatiche, diciamo, della segnalazione del nepotismo e della raccomandazione, in realtà purtroppo molto presente in Italia, anche quando si agisce in buona fede, il lavoro lo si trova perché ce lo segnala qualcuno che conosce, non perché esista una rete che ci porta in quella direzione. Per forza, se non esistono canali strutturati, se non esistono canali formali, ufficiali, chiari, trasparenti, che funzionano, le persone cosa fanno? Passano parola, cercano attraverso le persone che conoscono, attraverso gli amici, è una cosa assolutamente naturale, cioè se non esiste un canale formale, ufficiale che funziona, si cerca quello informale, ma questa è la vera sfida ed è francamente quello su cui l'Italia avrebbe dovuto in questi anni di tensione riformatrice avrebbe dovuto secondo me partire da lì, quindi da una riforma profonda di servizi per l'impiego che noi abbiamo provato a riformare con la riforma del lavoro ma mai fino in fondo anche attraverso una valorizzazione e riqualificazione delle persone che ci lavorano dentro questi centri per l'impiego. Ci sono dei paesi in cui hanno cambiato il cartello dai vecchi centri di collocamento, li hanno chiamato servizi per l'impiego ma dentro ci sono dei funzionari che, poveracci, non è mica colpa loro, fino a poco prima facevano i burocrati che compilavano formulari, il giorno dopo gli chiedi di fare il orientamento, formazione senza che loro, loro a loro volta siano stati formati, e torneremo anche su questo punto. Alberto intanto ci chiama, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Vuole segnalare un aspetto che possa portare alla risoluzione di questo problema? Beh, diciamo che non ho la pretesa di portare la soluzione, però io vorrei far riflettere chi ha il compito di gestire tutte le normative, sì, che se provano a parlare con le micro aziende, visto che in Italia ce ne sono parecchie, che magari hanno 2, 3, 4, 10 dipendenti, se devono assumere un minore, c'è una burocrazia e una serie di normative da fare che ti scoraggiano prima di partire, perché una grande azienda ha la possibilità magari di seguire un minore, ma se io ho 3-4 dipendenti e provo a inserire un minore per magari iniziarlo nell'attività, appunto perché una microimpresa, magari un artigiano inizia magari con un ragazzino di 16-17 anni, una cosa non puoi fargliela fare, un'altra cosa assolutamente no, mentre lavora devi mandarlo a fare dei corsi. Cioè, sono delle cose che sono assurde, dovrebbe esserci più libertà di far provare i giovani, anche nel periodo della scuola, ma senza mille burocrazie. Mille laccioli. Le statistiche della disoccupazione, quelle che parlano sempre di 43,7%, stiamo parlando di una cifra top dal 1977, bene, le statistiche della disoccupazione sono sempre riferite ai giovani dai 15 ai 24 anni. Poi se si va a vedere come impiegare un minorenne, un sedicenne, un diciassettenne, uno che ancora non li ha compiuti, anche se si trova nell'anno, i 18 anni, si trovano, lei non è il primo a segnalarcelo Alberto, una serie di vincoli burocratici che scoraggiano l'imprenditore che si rivolge altrove o rimane col posto vacante. Allora, forse pochi lo sanno, ma se io devo assumere un minore in azienda, se ho dei maggiorenni, questi maggiorenni devono andare in tribunale per farsi fare il certificato penale antipedofilia, che non sono mai stati indagati per pedofilia, e poi posso assumere il minore, cioè, ma delle cose che sono... io devo preoccuparmi pure della parte, diciamo, della legalità dei miei dipendenti, è una cosa che è ingestibile, una cosa di questo tipo, soprattutto per realtà come dice lei piccole. Grazie. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Perché una persona cerca un lavoro? E che domanda è? Ci segnala un ascoltatore. Per mangiare, naturalmente. Eppure, se fosse solo così, non si spiegherebbero gli sms che ci arrivano a raffica, che parlano invece di aspirazioni, possibilità e diritto alla propria realizzazione. Per questo la mancanza di posti di lavoro si accompagna, l'abbiamo segnalato, alla scarsità di numerosi profili professionali che evidentemente non coincidono con quelle che sono un po' le aspirazioni individuali e un po' con il tipo di formazione che in Italia si può trovare. Approfondiamo anche questo aspetto oggi perché ci interessa parlare della rete di sostegno e di qualificazione dei lavoratori o dei potenziali, dei candidati A. In passato, nel corso proprio di questa trasmissione, abbiamo affrontato il tema, l'equivoco Gli italiani sono viziati, sono schizzinosi, accettano certe cose, altre no. Cosa sta succedendo? Era una provocazione lanciata da un imprenditore ancora una volta a Veneto che diceva: gli italiani vogliono lavorare, sì, ma solo all'estero. È proprio così? Ancora buongiorno per chi si fosse unito all'ascolto da poco, da Irene Zerbini, e la possibilità di intervenire all'800 24 00 24. Bruno, buongiorno, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Pronto, mi sente? Sì, la sento. Da dove chiama, Bruno? Io chiamo da Roma. Ho 66 anni, sposato con una donna tedesca, 4 figli, 2 gemelli che hanno fatto 18 anni, uno di 22, un maschio 22 e una femmina 24. Hanno fatto tutti gli istituti tecnici. 2 hanno fatto agraria. Non riescono neanche nella scuola, neanche a mettere la benzina in un trattore quando c'è, per i problemi ci sono. Non riescono a fare, 2, a trovare un lavoro dentro un vivaio o qualcosa per fare esperienze, perché sindacati, burocrazia, INPS, INAIL hanno paura di prendere per un mese, 2 mesi di apprendistato per fargli capire qualcosa. Ho un figlio maschio che fa quasi il 5° istituto tecnico, parla 3 lingue, anche lui, italiano, tedesco e inglese. Voleva fare l'accademia qui in Italia militare, ma ci sono troppe complicazioni per fare gli esami. Si è iscritto già in Germania, fra una settimana va a fare un provino, dopodiché il prossimo anno, se sarà diplomato, potrà fare l'accademia militare in Germania, perché qui in Italia noi non conosciamo né generale né ministri e né padre eterno. Ho una figlia femmina, 3 lingue, studia lingue, non riusciva a trovare un lavoro negli alberghi qui dentro Roma per un mese, doveva fare esperienza, è andata in Germania, 10 giorni, ha trovato un lavoro dentro una casa di riposo dove ci sono diciamo persone anziane, come si usa in Germania. E per dirne una, ci sono anche persone italiane che vengono portate in Germania per l'anzianità, perché costano meno dell'Italia. Ha trovato un lavoro e fa un'esperienza in 10 giorni, tra l'altro. Bruno, grazie per questa sua segnalazione, un fiume in piena al nostro ascoltatore, perché ha illuminato una zona d'ombra, diciamo così, cioè coloro che non sono per niente schizzinosi, che non iscrivono necessariamente, come qualcuno ci dice, i figli solo ai licei classici scientifici. I suoi infatti hanno frequentato tutti degli istituti tecnici. Nonostante ciò, la figlia, come avete sentito, si è vista costretta, o almeno l'ha vissuta in questo modo, queste difficoltà iniziali per collocarsi nel mondo del lavoro, si è vista costretta ad andare all'estero. In 10 giorni ha trovato un lavoro in una casa di riposo come assistente agli anziani. Giovanni Lo Storto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il professor Lo Storto è il direttore generale della LUISS. Ci sembra di capire, direttore, che in Italia a molti giovani non rimane scelta. Lo confermano anche le cifre dell'immigrazione qualificata. Siamo i maggiori esportatori di cervello nel mondo. Ormai non si può rimanere in Italia. Dal suo osservatorio è così? Ci sono forse dei segnali di speranza che noi non cogliamo? Ci sono forse degli accordi con associazioni che possono farci sperare un'inversione di tendenza? Cosa vede lei come direttore generale della LUISS? Ma è certamente abbastanza così, nel senso che negli ultimi anni un trend importante è stato quello di guardare all'estero per tentare di trovare delle soluzioni diverse e nuove ai problemi che finora abbiamo ascoltato, sono tanti e troppo numerosi. Devo dire che non è per fortuna soltanto una questione di fuga di cervelli, ma trattandosi anche di altre parti del corpo, di cuore, di stomaco, ci si può lavorare con più intensità, nel senso che cosa vuol dire? Cosa intende dire, scusi, che con questa che anatomia? Sulle passioni, nel senso che si è detto prima, non si lavora soltanto per risolvere un problema di legato al dover mangiare, no? Si lavora anche e soprattutto per soddisfare le proprie aspirazioni. E allora un tema centrale che è stato sottolineato poco fa e col quale io sono molto d'accordo è il tema dell'orientamento. Nel nostro paese, a differenza che in molti altri paesi, noi continuiamo a pensare che orientare i giovani alle scelte sia andargli a presentare, come fosse una vendita di pentole e tappeti, la scelta da fare per l'università o per il percorso formativo all'ultimo momento utile del loro percorso di studi. Invece, Bisogna avviare dei percorsi di orientamento più ampi, che parlino ai ragazzi quando sono ancora più giovani, che parlino anche alle famiglie. Io le faccio un esempio: la nostra Summer School è stata aperta 4 anni fa, non presenta soltanto i corsi della nostra università, che sono di economia, giurisprudenza e scienze politiche, ma parla anche di medicina, di ingegneria, di informatica, di matematica, e i ragazzi sono cresciuti da 150 tre estati fa a 300 l'anno dopo, 600 l'anno ancora dopo, e quest'anno ne abbiamo avuti 1000 da tutta Italia a formarsi. E questo è un aspetto, senza contare quello che diceva lei prima, e cioè la possibilità anche attraverso partnership con associazioni di volontariato di tirare fuori le vere passioni che hanno questi ragazzi, e che sono anche quelle di mettersi alla prova, rimboccarsi le maniche e fare lavori fisici duri che li aiutino a formare il proprio carattere. E tra l'altro si sono detti, secondo le statistiche a disposizione, molto disponibili i giovani ultimamente, stanno riscoprendo il lavoro manuale, l'80% dei giovani si dice pronto ad accettarlo, questo secondo gli ultimi rapporti, e prenderemo in esame anche questa tendenza, perché è una realtà che cambia, quella del lavoro e quella della disoccupazione. Sono state dette molte volte e sfornate molte cifre che sembrano spingere alla rassegnazione, all'impotenza, non c'è nulla da fare. Eppure già dalle vostre testimonianze, da quanto si è detto fino ad oggi, ci potrebbero essere dei percorsi, non dico a costo zero, ma che non richiedono grandissimi investimenti, che possano portare a un'attenzione più grande verso l'orientamento e la formazione, e soprattutto a evitare quella burocrazia impietosa che spinge sì alla rassegnazione, ma l'imprenditore che vuole assumere, che a volte decide: guarda, mi arrangio da solo, mi arrangio con quelli che ho, chiederò degli straordinari in più solo e semplicemente perché preso alla sprovvista da tutta una serie di adempimenti terribili che ogni datore di lavoro, a cui ogni datore di lavoro deve sottostare prima di poter utilizzare una persona e dare una possibilità non solo alla persona ma anche alla famiglia che da quella persona dipende. Irene Tinagli, noi stavamo illustrando l'esempio della Germania. Perché in Italia non si riesce a mutuare questa rete sul territorio di formazione? Ma in Germania, oltre alla rete dei servizi per l'impiego, c'è anche un sistema di formazione proprio nella scuola, che è strutturato in maniera completamente diversa. Cioè, ci faccio degli esempi pratici. Istituti tecnici, loro hanno un sistema di istituti tecnici, visto che si è portato l'esempio anche dell'ascoltatore, che hanno dei percorsi di scuola duale, la chiamano. Cioè l'istituto tecnico contemporaneamente, non dopo, contemporaneamente al percorso di studio, ha delle giornate di formazione dentro l'azienda, quindi il ragazzo già fin da giovanissimo da un lato fa un percorso di formazione, di competenze, di contabilità, di letteratura, grammatica che serve, di inglese, di quello che gli serve, e dall'altro fa l'esperienza dentro l'azienda. Quindi questo binomio tra formazione a scuola e formazione in azienda non è lasciato al caso, non è lasciato neanche alla buona volontà del ragazzo che dice sì, sono disposto a fare il lavoro manuale. Sì, c'è quello intraprendente oppure quello che si tira indietro, no, tutti sono coinvolti. Gestito in maniera strutturata da dei percorsi, da delle scuole che danno queste opportunità in maniera strutturata, che coinvolgono insieme le scuole e le aziende. Questo è quello che noi dovremmo fare, che non siamo mai capaci di fare. Quindi, e fin dalla scuola superiore, come segnala lei ci parla di istituti tecnici, ma alcuni ci segnalano che non sono solo gli istituti tecnici a fare questo in Germania. Infatti addirittura già a 13 anni viene chiesto al ragazzino che fa l'equivalente della terza media di trovarsi uno stage in azienda e di trovarselo da solo. Cioè può essere, quando si pensa all'azienda non bisogna pensare solo alla fabbrica con la catena di montaggio, può essere un centro veterinario per quello che ha la passione per gli animali, può essere un ospedale, deve trovarselo da solo e andrà a passarci 2 settimane, ma deve quindi avere e sviluppare tutta una serie di competenze anche sulle richieste, su come si compila un curriculum, come si avvicina qualcuno qualcuno che un lavoro può dartelo. Bisogna partire dalla scuola, ma non solo dall'università, dunque ci segnala lei. La disoccupazione giovanile intanto continua a lievitare, mentre si continua a parlare di riforme, e questa, lei dice Tinagli, sarebbe stata la riforma più urgente. Secondo me sì, assolutamente sì. Io penso che se noi avessimo avuto il coraggio di partire subito da lì, forse sarebbe stato, anche perché su questo tema abbiamo già delle indicazioni, delle bozze di riforma, quindi sappiamo già quello che potrebbe servire, come si potrebbe fare, perché ci sono stati fior di giuslavoristi, di esperti, e quindi non è una cosa che ci dobbiamo inventare. Esistono i modelli stranieri, esistono, quindi io sono davvero dispiaciuta che alla fine anche la legge delega sul lavoro sia stata un po' al momento rallentata al Senato. Speriamo che almeno dopo l'estate, se si riesce a sciogliere il nodo della riforma costituzionale, si possa riprendere e accelerare la riforma del mercato del lavoro, ma fatta con coraggio, non a metà, perché noi abbiamo questo grande problema, questo grande vizio di fare le riforme a metà. Non solo, ma una volta che riusciamo a fare una riforma, trascorriamo magari gli anni successivi a pensare a come smontarla, come stiamo facendo anche adesso con una serie di riforme. Ecco, mi piacerebbe che avessimo il coraggio di una volta fare una riforma così importante come quella del lavoro, dei servizi per l'impiego, dell'orientamento per i giovani, fatta fino in fondo e fatta bene. Grazie per questo contributo. Ci segnalano però gli ascoltatori: io mi sono rivolto al centro per l'impiego come imprenditore e cercavo una segretaria, non mi hanno nemmeno risposto. Quindi dov'è questa rete di sostegno all'impresa quando anche qualcuno che vuole creare lavoro si trova o con vincoli e laccioli, come ci segnalava l'ascoltatore che se vuole assumere un minore deve pretendere il certificato antipedofilia di tutti i dipendenti che già ha in azienda, o addirittura con il completo disinteresse da parte di quei centri per l'impiego che sul territorio ci sono stati creati e che in realtà a impiegare non riescono proprio, tranne che se stessi. Angelo, buongiorno. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Angelo, sì, la sentiamo. No, volevo fare una provocazione. Dica. Sull'apprendistato. Sì. In parole povere, oggi la burocrazia per l'apprendistato è tremenda. Pensiamo a 30-40 anni fa, che i nostri genitori pagavano per mandare un figlio a fare l'apprendistato. Era eccessivo all'epoca, ma oggi è diventato improponibile per la burocrazia. Le faccio un esempio: io sono un imprenditore, sono l'amministratore di una società. Lei in che campo opera? In che settore? Le stavo dicendo, svolgiamo servizi di portierato reception per le grandi aziende. Sì. Quando devo assumere un apprendista mi vengono le vertigini. Perché? Qual è la cosa che più la sgomenta? Cosa le richiedono? Se la provincia o la regione risponde per il corso di formazione dovuto per legge, quando risponde e si danno, ma non sanno cosa insegnare a questi ragazzi. Siamo noi che gli dobbiamo dare il piano formativo. Cioè, no, scusi Angelo, voi dovete per legge assumere solo persone che abbiano fatto questo corso di formazione, ma fornire anche i contenuti. È così. Dovete... I contenuti glieli dobbiamo dare noi. Quindi non esiste nemmeno la conoscenza di ciò che andrebbe insegnato in questo corso di formazione. Guardi, lei da che provincia chiama? Da che provincia chiama? Da Roma. Ma io assumo in tutta Italia. Quindi lei sente... Il lavoro in tutta Italia. Le faccio un esempio. Nella provincia di Padova si stavano facendo fare un corso per i parrucchieri. Perché? Cosa ha a che vedere questo col portierato? Ah, non lo so, guardi, però loro in quel momento avevano quel corso. Quel corso attivato, e quindi questo era disponibile. Questi sono i paradossi e le cose incredibili che ci arrivano sempre con le vostre testimonianze. Adesso ve ne leggiamo una, questa è arrivata via email a spuntidivista@radio24.it. Ti segnalo quello che è successo a mia nipote, che vive invece negli Stati Uniti, e non è che noi siamo esterofili assolutamente, però come è stato copiato tutto ciò che attiene alla cultura musicale, ad altri aspetti un pochino più meno fondamentali del lavoro in questo momento nella vita, ci chiediamo perché non mutuare le buone pratiche. Ma questa email decisamente interessante la condividiamo con voi tra qualche istante, perché ci sono le notizie dalle strade e autostrade d'Italia. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Questi ultimi 10 minuti dobbiamo segnalare questa esperienza decisamente incredibile. Qualche mese fa la nipote di questo nostro ascoltatore è stata contattata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, perché vive negli Stati Uniti, la sorella di questo ascoltatore infatti ha sposato un americano. Ebbene, questa ragazza di 17 anni stava frequentando l'equivalente del high school, l'equivalente al nostro liceo, non c'è una differenziazione negli Stati Uniti tra liceo e scuola tecnica, e essendosi distinta per le sue capacità di parlare in pubblico, il Dipartimento di Stato l'ha contattata e l'ha selezionata e le ha fatto una proposta, le ha detto: ma scusa, tu hai queste caratteristiche, queste abilità, fai un percorso di studi in un paese estero, puoi scegliere tra la Corea del Sud e la Giordania, e lì trascorrerai del tempo, noi ti metteremo presso una famiglia locale pagata dallo Stato perché tu impari la lingua e possa essere avviata una futura carriera diplomatica, perché ne hai le caratteristiche. Dunque, attenzione, ci segnalano, non solo corsi di formazione che seguono colui o colei che ha perso il lavoro e attività strutturate all'interno delle scuole, ma attività ad personam che fanno sì che i singoli talenti vengano valorizzati e orientati al meglio. Naturalmente questa ragazza aveva anche la possibilità, volendo, di dire: no, io amo la musica, farò la pianista, non mi interessa di seguire queste mie inclinazioni che avete rilevato, non è certo, come dire, un inquadramento obbligatorio, però senza dubbio aiuta ragazzi e non solo poter essere identificati, formati, accompagnati in un percorso che non si riveli poi semplicemente velleitario. Bortolussi, abbiamo sentito di tutte queste problematiche che avrebbero gli imprenditori nell'assumere minorenni, nell'applicare i contratti di apprendistato. È sorpreso? No, non sono sorpreso, perché è la vita di tutti i giorni e mi trovo tutti i giorni a confrontarmi con questi aspetti. Però io dico una cosa, attenzione, perché questi problemi ci sono. Ci sono veramente, non è che dico non ci sono, sono minori, no, ci sono, però il problema secondo me è strutturale. Vede, in Germania la disoccupazione giovanile è al 7-8%, in Austria al 9%, in Olanda è sul 10%, perché questi paesi hanno un sistema diverso, strutturalmente diverso. Per esempio, c'è un forte orientamento al lavoro, quindi scuole professionali. Anche in Italia è un po' così, non mi stanco mai di ripeterlo. Il centro-nord, la disoccupazione giovanile è la metà della media nazionale, ma se lei va in Trentino Alto Adige, grazie al fatto che c'è il più alto numero di iscritti alle scuole professionali, la disoccupazione giovanile è al 12-13, e la stessa differenza tra Germania, Inghilterra e Francia. Francia per esempio è al 22-23%, la Germania al 7-8%. Perché? Perché in Germania fin da piccoli li abituano che un lavoro, per esempio anche di fabbro, anche di meccanico d'auto eccetera, è un lavoro nobile, un lavoro dove tra l'altro si può guadagnare bene, e quindi ci sono queste scuole professionali che li orientano. Quindi c'è un problema anche di mentalità, lei sta dicendo. Certamente, ma va, guardi, se lei vede, poi dopo in Italia c'è anche un problema di vincoli, diciamolo. Tutto quello che hanno detto i telespettatori, che cosa significa? Significa che molto spesso queste istituzioni italiane sono fatte più per chi ci lavora che per i giovani. Non c'è orientamento, diceva bene Passarini, non c'è questo, non c'è quello, ma è tutto fatto, anche l'orientamento al lavoro, ma anche il collocamento è fatto per chi ci lavora e non per chi deve essere collocato. Allora il problema vero è che ci sono dei vincoli. Al sud molti studiano materie letterarie, poverini, non perché hanno questa vocazione, ma perché mancano gli istituti che glielo permettono, perché mancano i laboratori, perché magari noi siamo vincolati da insegnanti, diciamo cambiamo settori, cambiamo sì, ma se l'insegnante quello sa insegnare e rimane in ruolo fino a che ha tot anni, come fai a cambiare? Quindi problema strutturale, insomma, che investe diverse aree e diversi settori. Walter Passerini, con te abbiamo iniziato questa disamina su come e quali percorsi per uscire da questa che tu definisci una guerra del lavoro. Ci scrivono però tanti ascoltatori al 349-238-6666 dicendo che, al di là dell'essere schizzinosi o meno, se uno ha una propensione, un'ambizione, una voglia di laurearsi anche in materie umanistiche o letterarie, perché non lo deve fare, Walter? Sì, c'è anche il diritto di sbagliare, il diritto di scelta prevede anche l'errore e quindi in qualche modo ci sta, insomma, il fatto che uno possa scegliere di fare il poeta perché lo soddisfa e poi farà i conti con la sua vita. Ma io volevo dire, tra, sono molto d'accordo con quello che diceva Bortolussi in questo momento e anche per il modo con cui lo dice, ma vedi, il problema è, diciamo, c'è un grosso problema di scuola, ecco, di formazione. Io credo che noi dobbiamo dire ai ragazzi, scegliete pure anche l'università, non è un problema, anzi noi avremmo tra l'altro bisogno di un numero superiore di laureati, esatto, in certe facoltà però e meno in altre. Giurisprudenza non abbiamo bisogno di nuovi avvocati, per dire, no? Ce ne sono fin troppi. Poi però sulla scuola noi dobbiamo davvero partire dai 15 anni, si chiama alternanza. Noi oggi abbiamo nelle scuole superiori, nelle medie superiori, meno del 10% complessivamente dei ragazzi che fa uno stage di qualche significato, quindi dobbiamo lavorare molto perché gli stage diventino davvero un'esperienza significativa per il ragazzo e non dei finti stage, sto parlando degli stage curricolari, cioè dentro il percorso di studi. Ma noi dobbiamo anche introdurre in Italia, cosa che c'è in Germania, che c'è in tutti i paesi che abbiamo stracitato questa mattina, questo ordinamento scolastico post diploma, tra il diploma e la laurea, ci sono delle scuole di alta formazione che tutti questi paesi che noi abbiamo nominato hanno e che noi non abbiamo. Per quali figure? Tecnici, per quelli che vengono cercati e non si trovano, tecnici per esempio progettisti di software, tecnici programmatori, diciamo, audiometrici e quant'altro. Anche nelle professioni sanitarie, esattamente, non strettamente mediche, c'è bisogno di tutto ciò. Quindi, e l'altra cosa è, insomma, introdurre davvero l'idea che non soltanto la scuola è un ente di formazione, ma anche l'azienda può essere un ente di formazione. E qui ti fermo, Walter, perché potremmo approfondire ulteriormente, ma ci porterebbe fuori tempo. È chiaro che non abbiamo scelto a caso di non parlare oggi di abbassamento delle tasse, non perché sia un argomento tabù di costo del lavoro, ma perché è un argomento che abbiamo affrontato diverse volte. Abbiamo voluto parlare della guerra del lavoro, del precariato, della disoccupazione e dell'impossibilità di realizzarsi dal punto di vista della formazione, quella che è stata individuata come i nostri ospiti come l'urgenza principale. Attenzione, sono molti naturalmente gli aspetti che si toccano quando si nomina la parola lavoro, questo forse è un po' quello più inesplorato. A questo punto mi fermo e ringrazio Peter Bescapè in regia, Barbara Bianchi e tutta la squadra di Spunti di Vista, Luca Cremonese, Anita Panizza e Alessandro Casali. Da Irene Zerbini, appuntamento a domani mattina alle 8:15. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi ha presentato Spunti di Vista. I mille aspetti dell'attualità.